C'aveva un cuore, l'ha donata a voi, ma voi a me non mi pensate mai. Il Papa Santo mi donasse Roma e mi dicesse lascia andare chi ti ama. Ed io ci risponderei sacra corona, si va la più chi mi ama che tutta Roma.